Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Sì, questo è il sound check, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera al gradito ritorno della nostra inviata su New York, adesso residente in Italia, grazie a Dio, Silvia Barba. Buonasera e bentornata. Grazie. Come è andata l'esperienza con noi la settimana scorsa? Molto bene, sorprendentemente bene, ho ricevuto anche dei bei messaggi di complimenti. Ma questo mi fa piacere, anche per la musica? Anche per la musica, ma quello non dipende da me, la selezione musicale è tutto merito tuo. No, ma io voglio avere delle conferme perché rischio sempre di essere cacciato. Da chi? Ma da qualcuno, no? Quello che succede in Italia, quando tu diventi, in questo caso musicalmente, non voglio dire all'avanguardia, ma alternativo, che è un termine brutto, però è così, perché io so che a una certa ora su una radio che fa informazione, nel weekend proporre della musica che di solito non propone nessuno può essere complicato. Invece sei una specie da proteggere, io ti proteggerò. WWF, addirittura. Grazie Silvia. Allora, visto che mi vuoi proteggere, io vorrei farti ascoltare, ecco, una donna che io invece vorrei proteggere anche fisicamente, perché credo. Mi piace anche sotto quel punto di vista, da tanto tempo, quella capelluta meravigliosa vocalist chiamata Erika Badu, che con la sua vocalità particolare, che all'inizio mi ricordava anche un po' Billie Holiday in chiave 2.0, ha fatto breccia, ha fatto strada, ha aperto un nuovo percorso. È un'artista pazzesca che da circa 20 anni ormai sull'onda del successo riesce a coprire tanti ruoli, sai, è anche, oltre ad essere una grandissima cantautrice, è anche un'attrice, un artista tutto tondo, ha studiato anche arti performative, dipingeva da piccola, sì, insomma, si definisce un artista e forse ma è senz'altro un artista, ha anche un bellissimo studio di registrazione a casa e pare che quando faccia le sue sedute di lavoro accenda incensi, candele, tutto a un po' mistica, molto volte. Mistica. Infatti, e poi si fa dei video pazzeschi, l'hai vista? Come no, si fa i video, fa tutto lei, a volte per registrare i video si fa anche arrestare, ma magari ne parliamo dopo, perché adesso vorrei presentare questo nuovo brano, che poi così nuovo non è, perché pare sia stato composto anni fa proprio da Erika Badu e da suo figlio Seven Benjamin, figlio di uno dei due outcast, un altro signore che ha anche un numero come nome, come se utilizzassero dei codici fiscali, perché si chiama André 3000. Sa perché? Però il brano è stato portato al successo da chi? Da Drake. Ecco, da Drake, che è un altro, insomma, che devo dire ha il suo da fare, e questo, insomma, è un po' questa Hotline Bling, chissà che vorrà dire. Hotline Bling, sicuramente ci sono dei riferimenti alle hotline, quelle sexy, notturne, quelle, no? Chiamate, quindi una telefonata notturna pesante, sporcacciona, ecco, che ogni tanto ci vuole, voglio dirlo. Lo dici tu. E comunque è un mixtape, insomma, uscirà presto, che porterà il nome appunto di But You Can Use My Phone, perché non bisogna mai guardare il telefono delle persone, Gegè. È vero, assolutamente. Si scoprono cose che si scoprono gli altarini, quindi mai prendere in mano il cellulare di Erika Badu. Invece di aprire l'armadio, adesso non bisogna più aprire il telefono. Però una cosa che possiamo fare è scoprire che cosa combina Erika Badu con Hotline Bling al soundcheck di Radio 24. You used to call me on my cell. You were device at night. I know when I holler late, that could only mean one thing. I know when I holler late, that could only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Boy, you got me down and got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started getting dressed and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some dudes I've never seen before. You used to call me on my cell, you were device at night. You used to call me on my cell, you were device at night. I know in that hotline, babe, that could only mean one thing. I know in that hotline, babe, that could only mean one thing. 214 witness. Some people say just let it go. Essere sincero, non so come sarà poi tutto l'album, but you can use my phone, non puoi usare il mio telefono, ma questa Hotline Bling non è una delle mie composizioni preferite del repertorio di Erykah Badu. Forse la versione di Drake ti piaceva di più? Forse mi piaceva di più, non lo so. Era un po' più intima, un po' meno... Boh, non lo so, guarda, magari la devo riascoltare meglio. Però ci sono delle cose di Erykah Badu che sicuramente mi hanno colpito molto di più anche al primo ascolto. Che mi fai ascoltare adesso? Allora resterei su Erykah Badu e ti faccio ascoltare una delle canzoni che preferisco. Si intitola Window Seat, ma anche perché ha una storia importante alle spalle. Un brano che Erykah Badu ha scritto per ricordare l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Infatti, quando girò il videoclip lì a Washington DC, proprio per sostenere questa pubblicazione discografica, fu anche arrestata, perché per girare, tu sai, un videoclip ufficiale, per utilizzare una telecamera professionale, sei stata a New York, adesso lo sai bene, se filmi col telefonino o con la macchinetta fotografica non ci sono problemi, ma se ti vedono con una telecamera professionale ti fermano, perché bisogna avere le autorizzazioni e quindi tocca pagare qualcosa, lo sai bene. Lei, no? Voleva farsi le cose da sola. Eh sì, e infatti lo ha fatto e l'hanno arrestata. Ecco. Erykah Badu con Window Seat al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Janet Jackson utilizza la voce di Joni Mitchell tirandola giù da una campionatura di un vecchio disco di Joni Mitchell, e con Q-Tip diversi anni fa realizza Got Till It's Gone, un grande successo prodotto da quei due marpioni di Jimmy Jam e Terry Lewis, che col tempo sono diventati veramente solo loro una multinazionale del successo, avendo prodotto alcuni degli artisti più accreditati e più venduti in senso assoluto. E Jimmy Jam e Terry Lewis hanno pensato bene di tornare in studio per continuare a supportare l'attività discografica e musicale di Janet Jackson, e infatti siamo pronti per ascoltare uno dei brani presenti in questa nuova produzione, che si intitola Unbreakable. Sicuramente, mia cara Silvia, la Janet Jackson ha intitolato questo album Unbreakable proprio perché, dopo averne passate di cotte e di crude, compreso la morte del fratello, che deve essere stato un evento drammatico non solo per la famiglia Jackson ma proprio per gli americani e anche per tutti gli appassionati, ecco, dimostra di avere grande energia, quindi indistruttibile la nostra Janet. Ma a te perché piace così tanto? Ne parli con gli occhi innamorati proprio. Si vede che sono lucidi. Sì, sì, sì. Non lo so perché, ho sempre avuto questa particolare passione per Janet Jackson. Mi piaceva molto anche fisicamente. Ti sto parlando di 20-25 anni fa, quando Janet Jackson non era così paffutella, ma aveva un fisico sportivo. Io frequentavo le palestre anch'io, e allora mi ricordo che c'erano gli istruttori, i famosi personal trainer, che alle ragazze in palestra dicevano: guarda, se vuoi fare gli addominali come quelli di Janet Jackson, devi fare questi esercizi. Era un modello di riferimento. Era un modello di riferimento, come D'Angelo. Anche a te piace D'Angelo, tantissimo. No? Ti piaceva nella copertina di Udo con gli addominali squartati? A me piace anche adesso, un po' più inquartatello. Sì, ti piace in senso assoluto. Perché solo. È sexy. Anche a me Janet Jackson. Mi la fa pancia quelle, è sexy. Quell'effetto, no? La vedo un po' come un gattino, però anche un po' sexy, no? È interessante. E mi piace anche la sua vocalità. Ecco, mi piacciono i cantanti che non urlano. Lei non urla, canta... certo, non è una vocalist di quelle che spacca quel vocalist, come dicono in televisione, però mi emoziona. Janet Jackson, allora ve la faccio ascoltare dal nuovo album Unbreakable. Non utilizzo, come spesso faccio, i singoli che consigliano le case discografiche. Per esempio c'è il singolo quello con Missy Elliott, no? È rap, proprio dance. No, non vi presento quello, vi faccio ascoltare un'altra cosa molto più elegante. Sono Lessons Learned e Black Eagle, sono praticamente due brani, ma sono legati qui al soundcheck di Radio 24, sempre una grandissima produzione firmata Jimmy Jam, Terry Lewis. Soundcheck. Il suono della musica. E lui è il reverendo del gospel contemporaneo, Mr. Kirk Franklin, con Wanna Be Happy. Voglio essere felice, vogliamo essere felici anche noi, soprattutto quando ascoltiamo la sua musica. È uno dei miei preferiti, e tra l'altro un lavoro formidabile quello che fa Kirk Franklin, non solo musicalmente parlando, ma anche da un punto di vista sociale, perché tutti i musicisti che partecipano alle sue band, che fanno parte delle sue band e delle sue produzioni discografiche, sono ragazzi recuperati magari dalla strada, ex tossicodipendenti, gente che viene dal carcere. Insomma, fa un bel lavoro Kirk Franklin, che tra l'altro fu abbandonato dalla mamma ed è stato svezzato dalla nonna. Ecco. A colpi di gospel. A colpi di gospel, che salva la vita in molti casi, perché devo dire che l'intensità con cui pregano e cantano gli americani nelle chiese fa molto, e colpisce noi bianchi, che questa tradizione non abbiamo evidentemente. I nostri cori nelle chiese sono ben differenti. Ecco, un tempo la chiesa battista o evangelica, insomma, che sono quelle che spingono anche con il gospel, erano frequentate soltanto da fedeli neri americani. Oggi invece nelle chiese del gospel ci vanno anche i turisti. Ci vanno i turisti un po' relegati nei piani alti della chiesa, ma io ho visto cantare gente di origine orientale che magari si è trasferita a New York. C'era una bellissima ragazza nel coro dove sono stata, a New Mount, sulla 114, che cantava insieme ai neri americani. Sì, e quella del gospel è diventata anche una scuola di musica impressionante. La maggior parte dei musicisti di riferimento della nuova generazione, anche musicisti di jazz, vengono dal gospel. Come da noi i ragazzi apprendono le prime nozioni musicali nei paesi suonando nelle bande del paese, lì negli Stati Uniti si frequenta il gospel nella chiesa per poi diventare dei professionisti. Fatto sta che le ritmiche che vengono dal gospel sono spaventose. Grande senso del ritmo, grande vocalità, grande grinta, perché come cantano. Esatto, e ce lo dimostra anche questo organista, si chiama Sean Martin, un signore che ha lavorato a lungo con Kirk Franklin, ha lavorato anche con gli Snarky Puppy, e sia con Snarky Puppy che con Kirk Franklin si è aggiudicato ben 4 Grammy Awards per gli arrangiamenti, per le sue composizioni. Qui incontra le voci di Gino Young e R.C. Williams in All in a Day's Work. Sean Martin al soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Dopo l'informazione, di nuovo dal Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24, prova del suono. Oggi abbiamo ascoltato già due novità, Erykah Badu con Hotline Bling, e poi anche il nuovo brano tratto dalla nuova pubblicazione di Janet Jackson intitolata Unbreakable. E siamo pronti in questa seconda parte con la nostra Silvia Barba, ancora sovraeccitata per questa sua lunga permanenza a New York, dove non segui soltanto l'ambiente musicale ma quello artistico in genere, no? Mi piace molto andare anche per gallerie, vedere street art, oppure fotografare, mi piace molto. Allora, ti porterei ad ascoltare adesso qualcosa di veramente funk. Ma ti sto parlando proprio forse di uno dei personaggi inventori del suono funk, oltre a James Brown, che è considerato lo Zeus del funk internazionale. Ma questo signore chiamato George Clinton, io spero che tu conosca Clinton. Lui è il primo ministro del funk. The Prime Minister of Funk. È così che lo chiamavano e lo chiamano a George Clinton, che è stato ricordato più o meno un anno fa con un film che gli hanno dedicato. George Clinton racconta tutta la sua incredibile storia, epopea, proprio che ha attraversato dalla fine degli anni 60 fino a oggi, come protagonista di Parliament, poi Funkadelic Parliament insieme a Bootsy Collins. Stiamo parlando proprio del vero funk, signori che scendevano sul palco trasportati da improbabili navicelle spaziali, che indossavano abiti fatti di lustrini, paillette, guarda, qualcosa di insomma, di cose psichedeliche, funk di quel periodo. Li hai mai visti dal vivo? Non l'ho mai visto dal vivo, mi sono perso un'occasione, perché anni fa è stato celebrato anche a Umbria Jazz, e a Umbria Jazz ha lasciato anche un bel ricordino nella camera d'albergo dove alloggiava. Questo me l'ha detto Carlo Pagnotta, il direttore artistico. Beh sì, credo che abbia fatto i suoi bisogni da una parte, e poi ha tinteggiato da artista biologico quale le pareti, e poi è partito lasciando questo ricordo. Beh, vera star, eh. Tu l'hai mai fatto? No, non ancora. Va bene, ma allora, fatto sta che è stato ricordato con un film dove lui racconta tutta la sua storia, e all'interno di questa pubblicazione gli appassionati di musica potranno scoprire questa versione remix di un grande DJ che è Louis Vega, Little Louis Vega, che per realizzare questa versione di Ain't That Funkin' Kinda Hard On You, una vecchia composizione di George Clinton, si avvale della collaborazione di un rapper, quale? Niente po' di meno che? Che? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, che forza Kendrick Lamar, eh? E allora non si dimentica il passato, Kendrick Lamar, questo è il suo tributo con Louis Vega al grande George Clinton, Funkadelic. Soundcheck, il suono della musica. Giovanissima vocalist inglese, si chiama Alexa Hurley, qui con il giovanissimo chitarrista inglese Tom Misch, al quale abbiamo già dedicato la prima parte del soundcheck della settimana scorsa, di sabato scorso, per questo ragazzo ventenne chitarrista, anzi potrei dire polistrumentista, arrangiatore, che realizza tutto a casa e che secondo me diventerà uno degli artisti di riferimento delle prossime stagioni. Avrei notato, mia cara Silvia Barba, che lì a Londra si spinge molto sulla creatività. Devo dire, stiamo programmando tante cose che vengono proprio da Londra. Beh, lo facciamo da sempre, perché è da sempre una città stimolata dagli Stati Uniti, ma poi si lascia andare sulla creatività. È come se gli Stati Uniti dessero il là e loro poi sviluppano l'arrangiamento, ecco. No? Lo hanno fatto tutti, dai Beatles, Rolling Stones fino agli artisti della nuova generazione. Hai mai sentito parlare di Jacob Collier? No. Mai sentito parlare? No. Guarda, allora, quante la prossima cose devo imparare? No, guarda. Senti Silvia Barba, guarda, ti verrà la barba lunga, lasciami lasciami dire questa cosa, ti verrà la barba lunga, perché io ti farò ascoltare tutte queste cose. Non puoi non conoscere Jacob Collier, te lo faccio sentire la prossima settimana, questo ragazzo che con la voce fa quello che vuole, suona tutti gli strumenti, no, pazzesco, guarda, ne parliamo la prossima settimana e lo faccio volentieri. Ma restando sempre lì a Londra, ti faccio sentire una ragazza che noi teniamo sempre sotto controllo, adesso ha fatto un album bellissimo che vado a riproporvi, però in una versione remix, perlomeno il singolo intitolato Unstoppable, remix di FKJ per Lihan La Havas, che si sta levando delle bellissime soddisfazioni perché anche negli Stati Uniti sta ottenendo grandissimi successi dal vivo, e speriamo che qualcuno in Italia abbia La bella idea di proporla dal vivo nel nostro paese, mi sa che Lian La Havas inizia a avere anche un bel seguito da noi, magari in un festival come quello che si fa a Locorotondo, il Locus Festival d'estate, che è un festival molto attento alle nuove sonorità e ai nuovi artisti. Forse avremo la possibilità di vedere Lian La Havas. Sto buttando le basi, no? Tu lanci il sasso, vediamo se qualcuno lo coglie. Spero di sì, mi piace anche molto fisicamente la ragazza, magrolina ma interessante. Lian La Havas, Unstoppable, al sound check. Can you hear me? Sound check, il suono della musica. Il suono di Frank Ocean, che in pochissimi anni è diventato uno degli artisti di riferimento dell'hip hop del contemporary R&B, dall'album di successo Orange Channel, questa sua composizione intitolata Super Rich Kids, con la partecipazione del rapper Earl Sweatshirt. Lui giovanissimo inizia la sua carriera comunque... Frank Ocean? Sì, sì, credo 1989. 87 addirittura. 87. Va bene. Lui inizia la sua carriera, insomma, scriveva testi per persone come Justin Bieber o John Legend, e poi insomma è uno tenuto sotto controllo dai grandi attuali che insomma detengono il potere dell'hip hop in questo momento in America, come Beyoncé, Jay-Z. Insomma, lui è uno molto, molto tenuto, no? In considerazione. Esatto. Farà, sì, farà strada. Ed è anche stimato perché ha avuto il coraggio in un ambiente difficile come quello dell'hip hop, dove tutti si sentono un po' macho, dove ostentano questo. È stato forse uno dei primi artisti a fare coming out. Ha fatto outing, ha dichiarato la sua omosessualità e la cosa però gli ha portato bene. E certo, perché poi questa cosa alle persone piace, se sei sincero e se sei una persona insomma che può dire la propria anche da un punto di vista e sdoganare anche certi cliché che ci sono, soprattutto in questo genere musicale, no? Dove appunto abbiamo detto si è molto... si vuole ostentare sia la propria mascolinità che anche la propria femminilità. Penso a Beyoncé, voglio dire, molto femminile, molto accattivante, molto sexy. È bello dire... la verità. Dire la verità, esatto. E uno dei brani più belli che appartengono al repertorio di Frank Ocean è senz'altro Thinking About You, che qui ascoltiamo nella versione recentissima di una delle mie vocalist preferite, dall'album The Perfect Animal, l'animale perfetto, e lei, Becca Stevens, con la sua band. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola Woman, il nuovo album di Jill Scott, il brano splendido Lighthouse, qui al soundcheck di Radio 24 con Silvia Barba, che sta andando a verificare di persona la discografia presente in questo studio. Beh, devo dire, qui ce n'è di cose da sapere. No, ci stanno oltre, 35 anni di dischi acquistati. Ma come fai a catalogarli? Guarda a memoria, dico la verità, sì, perché tutto quello che vedi è buono, cioè può essere tranquillamente suonato in radio, e comunque c'è sempre da imparare da queste cose. Poi certamente arriva anche della discografia per motivi professionali, magari cose che non mi piacciono, e quelle le vedi lì tutte accantonate, e prima o poi non so che cosa farne, forse potrei regalarle. Senti, ma ti capita invece di avere una cattiva impressione e poi invece dopo anni riscoprire delle cose che... No, è buona la prima, mi deve piacere subito la musica, perché o mi entusiasma o mi annoia, e se mi annoia poi perché devo andarla a riascoltare? No, non so, magari col tempo cambiano anche i gusti. Cambiano i gusti, sì, no, più che altro si affinano i gusti, e che si diventa molto esigenti. Quando ascolti tanta musica cerchi sempre qualcosa di stimolante, ecco. Poi sai, la bellezza anche nella musica è soggettiva, a me piacciono delle cose, a altri no, e infatti per questo io suono certa musica e nelle altre radio suonano altre cose che a me non piacciono. Non so a te. No, io le cose che passi tu piacciono molto, le cose che vanno tanto in radio, un po' troppo mainstream, non piacciono, soprattutto queste attuali, sì, non mi piacciono. Ma non lo so, comunque va bene, noi continuiamo a fare la nostra programmazione e chiudiamo in bellezza. Allora guarda, mi hai provocato, ti suona veramente qualcosa di contemporary che arriva direttamente da New York, ti farà piacere questo incontro fra etichette, un'etichetta indipendente come la Revive Music e una etichetta che ha segnato il corso della musica e del jazz ormai da quando è nata, ovvero la Blue Note Records, che insieme realizzano Supreme Sonacy, ovvero l'incontro di vari artisti rivisitati anche dalla partecipazione di alcuni disc jockey e producer discografici della nuova generazione come il bravissimo Radar Ellis, e qui si incontrano musicisti come il tenorista Troy Roberts, il bravissimo Casey Benjamin al contralto o il giovane pianista russo ma ormai residente a New York Eldar Janjirov, bravissimo questo ragazzo, giovanissimo ma suona il pianoforte benissimo. Qui rivisitano insieme i Water Games di Ravel, proprio lui il compositore di musica classica, e con questo brano anzi lo facciamo sentire già quasi da 5 minuti perché ha una durata un po' più corposa, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani sera alle 19:15 sempre per il soundcheck, sempre soltanto qui su Radio 24. Grazie Silvia. Grazie a te, ciao a tutti.